Quando il re Ezechia ebbe udito ciò, si stracciò le vesti, si ricoprì di sacco e si portò nel tempio del Signore. Quindi mandò Eliachim, il maggiordomo, Sebna, lo scriba, e gli anziani dei sacerdoti ricoperti di sacco, dal profeta Isaia, figlio di Amoz, a dirgli: «Così parla Ezechia. Questo è un giorno di tribolazione, di castigo e di obbrobrio, perché i figli giungono fino alla matrice, ma manca la forza per partorire. Forse il Signore, Dio tuo, ascolterà le parole del gran coppiere inviato dal suo signore, il re d'Assiria, per insultare il Dio vivo, e lo castigherà per le parole che il Signore, Dio tuo, ha udito. E tu eleverai una preghiera in favore del resto che ancora sussiste». I servi del re Ezechia giunsero presso Isaia. Disse loro Isaia: «Così direte al vostro Signore. Così parla il Signore. Non temere per le parole che hai udito, con le quali i servi del re d'Assiria mi hanno bestemmiato. Ecco, io metterò in lui un tale spirito che quando avrà inteso una notizia ritornerà nel suo paese e vivi io lo farò cadere di spada». Il gran coppiere se ne ritornò e trovò il re d'Assiria che attaccava Libna. Difatti, egli aveva udito che si era allontanato da Lachis. Appena il re sentì dire riguardo a Tiraca, re d'Etiopia, «è uscito per attaccarti», egli inviò di nuovo dei messaggeri ad Ezechia dicendo: «Così direte ad Ezechia, re di Giuda: non ti inganni il tuo Dio nel quale riponi la tua fiducia dicendoti: Gerusalemme non sarà consegnata nelle mani del re d'Assiria. Ecco, tu hai udito ciò che han fatto i re d'Assiria in tutti i paesi votandoli allo sterminio, e tu sarai preservato? Gli dèi delle nazioni che i miei padri hanno distrutto hanno forse salvato gli abitanti di Gozan, di Carran e di Rezef e gli edeniti di Telassar? Dove sono il re di Amat, quello di Arpad, il re delle città di Sefarvaim, Enà e Ivva?» Ezechia prese la lettera dalla mano dei messaggeri e la lesse. Indi salì al tempio e, dispiegatala davanti al Signore, pregò così il Signore: «Signore degli eserciti, Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio di tutti i regni della terra. Tu hai fatto i cieli e la terra. Porgi, o Signore, il tuo orecchio ed ascolta. Apri, o Signore, i tuoi occhi e vedi. Ascolta tutte le parole di Sennacherib che egli inviò per insultare il Dio vivente. In verità, o Signore, i re d'Assiria hanno sterminato tutte le nazioni ed il loro territorio ed hanno consegnato al fuoco i loro dei, perché quelli non erano dei, ma opera delle mani dell'uomo, legno e pietra, perciò li hanno annientati. Ma ora, Signore, Dio nostro, salvaci dalla sua mano, e sappiano tutti i regni della terra che tu solo sei il Signore». Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire ad Ezechia: «Così parla il Signore, il Dio di Israele, al quale hai rivolto la preghiera riguardo a Sennacherib, re d'Assiria. Questa è la parola che il Signore ha pronunziato contro di lui. La vergine figlia di Sion ti disprezza, si beffa di te la figlia di Gerusalemme, scuote il capo dietro a te. Chi hai tu ingiuriato e bestemmiato? Contro chi hai levato la tua voce ed elevato superbo i tuoi occhi? Contro il Santo d'Israele. Per mezzo dei tuoi servi hai insultato il Signore e dicesti: Con i miei carri numerosi ho scalato la cima dei monti, le estreme giogaie del Libano. Ne ho reciso i cedri più elevati, i cipressi più belli. Ho raggiunto le alture più remote e la sua lussureggiante foresta. Ho scavato ed ho bevuto acque straniere. Ho fatto seccare con la pianta dei miei piedi tutti i torrenti dell'Egitto. Non l'hai forse udito? Da tempo ho preparato questo. Da giorni antichi ne ho fatto il progetto ed ora lo realizzo. Tuo destino fu di ridurre a un cumulo di rovine le città fortificate. I loro abitanti, le mani indebolite, furono presi da costernazione e confusione e divennero come l'erba del campo, come la tenera verzura, come l'erba dei tetti bruciata dal vento d'Oriente. Quando ti alzi e quando ti siedi, quando esci o entri, io lo so. Poiché ti sei adirato contro di me e la tua arroganza è salita fino alle mie orecchie, ti porrò il mio anello alle narici e il mio freno alle tue labbra. Ti farò ritornare per la strada per la quale sei venuto. Questo ti servirà da segno. Quest'anno si mangerà il seme caduto. L'anno seguente ciò che cresce da sé. Ma il terzo anno seminerete e mieterete, pianterete vigne e ne mangerete il frutto. Il residuo della casa di Giuda continuerà a mettere radici in basso e farà frutti in alto, perché da Gerusalemme uscirà un resto ed un residuo dal monte Sion. Lo zelo del Signore degli eserciti farà questo. Perciò così dice il Signore del re d'Assiria: non entrerà in questa città e non vi lancerà alcuna freccia, non l'attaccherà con scudi e non eleverà contro di essa un vallo. Ritornerà indietro per la strada per cui è venuto e non entrerà in questa città. Oracolo del Signore. Proteggerò questa città per salvarla, per amore del mio nome e di Davide, mio servo. Quella stessa notte scese l'angelo del Signore e colpì nell'accampamento d'Assiria 185.000 uomini. Quando si alzarono al mattino, ecco, quelli erano tutti morti. Sennacherib, re d'Assiria, levò il campo, partì, fece ritorno e rimase a Ninive. Or mentre era prosternato nel tempio di Nisroch, dio suo, i suoi figli Adrammelech e Zarezer lo uccisero di spada e si salvarono fuggendo nel paese di Ararat. Suo figlio Assaraddon divenne re al suo posto.